Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. I suoi libri sono amati dalle adolescenti, ma anche dalle ragazze, diciamo, un po' più grandi di tutto il mondo. In Italia i suoi romanzi hanno venduto complessivamente 1 milione di copie. Stiamo parlando di Anna Todd, creatrice della serie After e dell'altra serie Nothing More. I suoi romanzi raccontano storie d'amore fra ventenni, ma a differenza, diciamo, di altri libri romantici, Anna Todd spesso e volentieri scrive anche di sesso. La Todd è diventata un fenomeno internazionale con una forma di self-publishing, di autopubblicazione. Lei cioè ha iniziato a scrivere brevi racconti a puntate su Wattpad, che è una piattaforma appunto per leggere e scrivere. Aveva scritto una fanfiction sui componenti della band One Direction e così era nata la serie After. I suoi scritti sono stati visualizzati, ovviamente gratuitamente, 1 miliardo di volte. Questo non vuol dire naturalmente che lei abbia avuto 1 miliardo di lettori, perché le pagine che ha scritto erano tanti, i lettori possono averle visualizzate diverse volte. In qualunque caso si tratta di un dato notevole, quasi da record. I suoi libri poi dal web sono stati portati sulla carta. Come orientarsi nel mondo di Anna Todd? Allora, la serie After gira intorno alla storia d'amore appunto fra Tessa e Arden. La serie Nothing More, e ora la nuova Nothing Less, riprende un personaggio minore di After, Landon, un ragazzo insomma che deve districarsi fra due ragazze. Diciamo che è una sorta di spin-off, almeno così si chiama in televisione, dell'ultima saga Nothing Less. È appena uscito in Italia il primo volume, Fragili Bugie. A febbraio uscirà il secondo e ultimo volume. Ma perché Anna Todd, diciamo, resta così fedele al nucleo iniziale dei suoi personaggi? Sentiamola con la traduzione in presa diretta di Marina Spagnuolo. I just love the characters. I feel like I'm devo solamente dire che amo tantissimo tutti questi personaggi e ho la sensazione di non aver mai finito di scavare nella loro vita, nelle loro personalità. Anche se ho scritto tantissimo su di loro e si vede dalla pila di libri che sono stati pubblicati, comunque ho ancora delle storie che continuo a scrivere su di loro e che continuano a far parte della mia idea di loro. So I don't know, they just won't go away out of my head. Insomma, anche prossimamente dobbiamo aspettarci da Anna Todd sviluppi su nuovi personaggi, magari anche minori, che sono già presenti nei tuoi libri. I'm not sure yet. Beh, ancora non lo so, non è ancora presto per dirlo, però non lo nego, non dico di no, assolutamente. Posso però assicurarvi che i prossimi due libri a cui sto lavorando non sono collegati ai personaggi di After, neanche quelli minori, quindi non lo escludo, forse sì. Two other books that are not related. Ho sentito che stai scrivendo un libro che ha a che fare in qualche modo con i personaggi di Piccole Donne, è così? Yes, it is. My version is called The Spring Girls. Sì, effettivamente sì. Il libro che sto scrivendo si intitola Spring Girls. Si riferisce a Piccole Donne, ma è una versione molto più moderna. I nomi rimangono gli stessi, la trama è la stessa, ma è una storia molto diversa. Si sviluppa in maniera molto diversa. But I love it and I'm really excited about it. A proposito di classici a cui fai riferimento, soprattutto nella saga After, fai riferimento a Jane Austen, alle sorelle Bronte, molte ragazzine, molte adolescenti, ma anche ventenni, hanno imparato a conoscere i classici attraverso i tuoi libri. Era un tuo obiettivo preciso o è qualcosa così che ti è scoppiato un po' fra le mani? It was definitely surprising. I just have always loved classic novels. È stata una vera e propria sorpresa. Io ho sempre amato leggere i romanzi, i classici, e quando scrivevo su Wattpad e parlavo magari di Orgoglio e Pregiudizio, di Cime Tempestose, effettivamente i miei lettori non erano proprio in quell'ottica di capirli o di conoscerli e nessuno li leggeva. A quel punto, quando invece ho scoperto che grazie ad aver li inseriti nei miei libri di After, hanno cominciato a leggerli, è stato davvero meraviglioso per me scoprire che i giovani si avvicinavano a dei generi classici che non conoscevano e che a loro piacevano, quindi è stato davvero straordinario vedere che ho potuto avere un'influenza nelle loro vite. A proposito di Wattpad, È innegabile che il nome di Anna Todd sia legato inizialmente come ad un grande fenomeno nato sulla rete. Tu lo sappiamo, insomma, hai iniziato proprio a scrivere la saga After su Wattpad, quindi proprio sullo smartphone, anche fisicamente. Quanto invece la rete ti ha influenzato e i lettori attraverso la rete ti hanno influenzato nello scrivere invece quest'ultima serie? Hai mantenuto un legame così forte? Yes, with these books I put them on Wattpad as well. Sì, assolutamente sì, infatti anche questi ultimi libri sono stati pubblicati sulla piattaforma Wattpad. Inizialmente questo non faceva parte dell'accordo che avevo sottoscritto con la casa editrice, ci eravamo accordati su una determinata percentuale del romanzo che potesse comparire su Wattpad, ma non l'intera versione del romanzo, del volume. Poi quando ho visto che effettivamente avevo superato la percentuale che mi era stata concessa dall'editore, ho scoperto che questo modo di lavorare mi aveva un po' annoiata, non era più l'approccio divertente che io avevo con la scrittura che mi è sempre piaciuto. A quel punto mi sono rivolta alla casa editrice, ho detto: ma perché non possiamo pubblicare gli interi libri sulla piattaforma Wattpad? Quando lui ha detto di sì, è stata davvero una cosa che mi ha reso felice, proprio perché mi piace questo aspetto sociale, questo feedback continuo. Le reazioni dei miei lettori sono per me davvero di importanza vitale e fondamentale. Non sono uno scrittore tradizionale che sta nel suo stanzino a scrivere da sola, ho bisogno di questo processo di elaborazione della scrittura. That process to me just doesn't feel like something I ever want to do. Tu ripeti spesso che appunto i lettori e i consigli che i lettori ti danno sulla rete sono per te fondamentali. In tutti questi romanzi che hai scritto, c'è un personaggio in particolare, un episodio o un cambiamento di carattere, di rotta della trama che ti è stata particolarmente suggerita dai lettori? It's not really plot that they suggest, it's mostly how they're feeling about what I'm writing. Sicuramente non hanno cambiato quello che è stato il romanzo, la trama, ma effettivamente hanno avuto un'importanza per quanto riguarda le sensazioni di quello che provavano e di quello che la mia scrittura faceva provare loro. Quindi, per esempio, quando c'erano tutti quei grandi tira e molla tra Tessa e Hardin che si amavano, si lasciavano, eccetera, io riuscivo a capire quali erano le sensazioni dei miei lettori. Questo mi ha aiutata tantissimo, vedere se parteggiavano più per Tessa o per Hardin, se mi dicevano che erano stufi di vederli litigare, allora io effettivamente smettevo di farli litigare quando scrivevo su di loro. Quindi era davvero importante avere il polso di quelle che erano le loro reazioni emotive. Era davvero motivante per me riuscire ad essere sempre aggiornata sulla sensazione provata dai lettori, se erano arrabbiati, se erano tristi, se erano felici. E poi quello che ho sempre fatto era inserire dei piccoli indizi nelle mie pubblicazioni su Wattpad per vedere se quello che scrivevo sulla trama futura li indirizzava a capire qualcosa che potesse essere percepito come prevedibile. Allora, se effettivamente si trasformava in un elemento prevedibile, io lo cambiavo, perché volevo assolutamente sorprenderli e non essere prevedibili affatto, e ho un po' giocato con loro come con dei burattini, però non volevo essere prevedibile, volevo sorprenderli a tutti i costi. A proposito di Tessa e Hardin, i protagonisti della saga After, allora lui insomma è un po' il bello impossibile, un po' maledetto, insomma, diciamo così. Lei è anche un po' presuntuosa, piena di sé, insomma, apparentemente non dovrebbero essere due personaggi così da mettere sul piedistallo, eppure sono diventati i modelli, almeno letterari, insomma, per quanto riguarda la narrativa, di molte ragazze, di molti adolescenti. Come mai, secondo te? In my opinion, of course, I think that secondo me, credo che questo sia avvenuto perché nei libri, nei romanzi, non ci sono molti personaggi che vengono presentati realisticamente con i loro difetti, soprattutto per la narrativa degli adolescenti. Vengono presentati tutti questi personaggi fortissimi, soprattutto le ragazze sono davvero coraggiose, riescono a salvare il mondo, non commettono mai errori. Ma dove sono i ragazzi normali, quelli che invece gli errori li commettono e che i difetti li hanno? Per gli adolescenti di oggi, soprattutto per quelli di oggi, non è sempre facile identificarsi con Katniss, che è un personaggio straordinario, fortissimo, e quindi hanno bisogno di identificarsi in modelli più veri, realistici. Tipicamente a 18 anni è l'epoca in cui, è il periodo in cui si commettono tantissimi errori, devi capire chi sei, devi crescere, devi formarti. E nella narrativa, nella letteratura, io che leggo così tanto non vedo tanti personaggi che sono così, e quindi hanno bisogno di relazionarsi a persone come loro, e non sono presenti nella narrativa di oggi. Forse è questa la ragione. Teenagers to find stuff that they can relate to. A proposito della veridicità, insomma, dei personaggi e delle storie, nei tuoi libri c'è molto sesso rispetto ad altri libri, diciamo, di genere romantico destinato a giovani lettrici. Qualcuno addirittura ti definisce la E.L. James, colei che ha scritto, insomma, le 50 sfumature di grigio delle teenager. Perché effettivamente c'è tanto sesso nei tuoi romanzi rispetto appunto al genere romantico, e questo paragone con E.L. James ti piace o ti infastidisce? Well, I love E.L. James as a writer and as a person. Io adoro E.L. James sia come scrittrice che come persona, e non mi dà alcun fastidio, anzi, essere paragonata a lei, però non credo che sia vero. Quando approccio la stesura di una storia d'amore e parlo di una ragazza, mi occupo di quello che è la sua vita, quindi delle cose che le succedono, dover scoprire chi è, perdersi, ritrovarsi, perdere la verginità, i primi incontri, le prime conoscenze. E quindi quando vado a fondo di tutti questi dettagli che si riferiscono alla vita di una ragazza, sarebbe davvero molto strano se non parlassi anche della vita sessuale, della sua sfera sessuale. Per quello che penso io personalmente, sarebbe davvero bizzarro dover aver paura o doversi vergognare di trattare questo argomento. Io lo faccio nei miei libri e lo faccio molto apertamente. Certo, non sono una che scrive i saggi, i pamphlet, che dice va, andate a far sesso. La mia protagonista Tessa ha 18 anni e mi sembra più che normale che perda la sua verginità a questa età, e in più i personaggi di cui parlo hanno sempre rapporti protetti, fanno sempre sesso sicuro, quindi non mi sento assolutamente imbarazzata né nel leggere e né tantomeno nello scrivere sulla sfera sessuale. Secondo me non sarebbe sano, non sarebbe positivo nascondere gli elementi relativi alla sfera sessuale ai giovani. Credo che sia giusto continuare su questa strada, e poi ovviamente dipende dai genitori se permettere o meno ai loro figli di leggere questo genere di libri. Io certo non smetterò di farlo solo perché tra i miei lettori ci sono tanti giovani. Read what they want, but I'm never going to not write about sex just because I have young readers. Un'ultima curiosità: visto che utilizzi ancora Wattpad come, diciamo, primo approccio per far conoscere le tue storie, sviluppare altri personaggi che già esistevano nei tuoi primi romanzi e così via, quanto cambia nei tuoi libri dalla versione in rete alla versione che poi troviamo in cartaceo? Insomma, c'è un lavoro poi di editing che viene fatto, oppure buona la prima? Cioè, riesci a portare sulla carta stampata quello che realmente è scritto sul web? There's a lot of grammar editing, for sure. Beh, l'editing è relativo soprattutto alla grammatica, ma non ci sono assolutamente cambiamenti rispetto alla trama del libro. Si può dire che la versione che appare su Wattpad è molto più lunga rispetto a quello che viene poi pubblicato effettivamente in versione cartacea, perché sarebbe effettivamente un po' troppo pubblicare tutto quanto nel libro. E inoltre ho aggiunto delle scene per il volume, poiché leggere quello che scrivo su Wattpad è gratis, penso che sia un bonus da offrire ai lettori che spendono del denaro per acquistare il mio libro e quindi possono avere qualcosa in più. Un altro cambiamento che c'è stato è, per esempio, un personaggio che è presente nella versione su Wattpad, mentre invece non è presente nella versione pubblicata, ed era un personaggio che effettivamente non era così importante, quindi l'ho eliminato. E l'altra cosa che posso dire che è diversa è che su Wattpad tutto è molto meno strutturato, ma effettivamente le ossa, lo scheletro che poi vediamo nella versione cartacea è effettivamente lo stesso. Le sensazioni sono la cosa più importante e rimangono le stesse. The bones of it are still the same, it still has the same feeling, I just changed some stuff. E questa era l'americana Anna Todd, creatrice della saga After, ora in libreria con Nothing Less, Fragili Bugie, pubblicato da Sperling e Kupfer. Breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Avevamo parlato già tempo fa di questa scrittrice, Novita Amadei, a proposito del suo primo romanzo che si intitolava Dentro c'è una strada per Parigi. Era stato uno dei romanzi finalisti alla prima edizione del premio letterario Neri Pozza. Ora è in libreria con un nuovo romanzo che si intitola Finché notte non sia più, sempre pubblicato da Neri Pozza. Partiamo allora dalla protagonista femminile di questo romanzo. La protagonista è una ragazza, Caterina, che lascia Roma e va a vivere nel sud della Francia, in un piccolo borgo, con la zia Liliana. Innanzitutto, qual è la ragione che spinge Caterina a lasciare la sua città? Caterina vuole cercare la sua strada, è una giovane ragazza neolaureata. La madre la vorrebbe accanto a sé nel salone da parrucchiera, ma lei, dopo gli studi in infermieristica, si prende un anno e raggiunge la zia, che precedentemente si era trasferita nel sud della Francia. Lavora in un ambulatorio e l'aiuta nel salone da parrucchiera, e lì trascorre il suo anno, che è un anno un po' di iniziazione per lei alla vita, all'amore, alla morte, si può dire. In questo salone da parrucchiera ha un incontro particolare, perché un giorno in questo parrucchiere per donna, insomma, entra un uomo anche anziano, vecchio, che si è fatto male cercando di accorciare da solo i suoi capelli. Lui si chiama Delio. Mi verrebbe da dire che scocca una scintilla fra i due, ma non stiamo parlando di un amore a prima vista, non stiamo parlando di un colpo di fulmine, è qualcosa di più profondo, di un legame più intenso. Che cosa inizia a legare Caterina e Delio? Sono entrambi personaggi che vivono una solitudine buona, una solitudine che genera legame, che genera relazione. Si cercano, si trovano e c'è effettivamente fra loro intesa. Quindi Caterina si trasferirà poi a vivere nell'ala bassa del podere che Delio aveva ristrutturato per il figlio, ed è lì poi che dai racconti di Delio e di altri personaggi che vivono nel borgo, che conoscerà e si innamorerà del figlio di Delio, che ha lasciato il padre. Ecco, non si parlano da 4 anni, Delio e il figlio. A questo proposito, ricordo che nel tuo primo romanzo, Dentro c'è una strada per Parigi, anche in questo caso c'era una donna molto sola, con un figlio e una figlia, e che aveva un rapporto molto intenso con una vicina di casa, anziana. Quindi anche qui una distanza di età e comunque due persone che si trovano emotivamente molto vicine. Come mai tendi a riprodurre questo meccanismo nei tuoi romanzi? Trovo gli anziani delle figure molto commoventi, perché evocano mondi remoti e affascinanti, e perché quando cadono si rompono. Delio, per esempio, è un anziano affetto dal morbo di Parkinson, che viene ritratto proprio nelle sue cadute nell'orto in casa, ed è attorno a quest'uomo che cade che si aggregano tutti i personaggi del romanzo. Trovo commovente appunto questi anziani che cadono e che si rompono, perché noi, il nostro tempo, nasce in realtà dai cocci che rimangono per terra, ma poche volte ne abbiamo coscienza. Ecco, la tua è una sensibilità comunque particolare, perché ricordo anche nel tuo primo romanzo, ma anche in questo, descrivi spesso personaggi chi hanno un problema di solitudine, cioè che hanno una solitudine interiore o anche esteriore, che cercano in qualche modo di superarla in maniera anche magari insolita. Come mai torni spesso su questo tema della solitudine? Perché mi permette, credo, di leggere introspettivamente i personaggi. Delio è spesso descritto in monologhi che si fa oppure nei suoi dialoghi che ha con il cane, e questo mi permette di dire cose che in dialoghi di gruppo o fra persone non verrebbero fuori. Il cane che cos'è per Delio? Una sorta di alter ego, il suo grillo parlante? Il cane è il suo specchio, perché è un cane vecchio come lui, è un cane malandatissimo e che è sempre in dialogo con Delio, che lo segue se non è lui, se non è il cane a cercare Delio e Delio a cercare il cane, e sono una famiglia. Ecco, andiamo allora nello specifico sul cane, perché è molto particolare anche questo rapporto. Ci leggeresti proprio qualche riga della descrizione di questo cane, del rapporto che ha con il vecchio Delio? Ramingo era un cane timido. Chissà come doveva essere da cucciolo, si chiese Caterina osservandolo avvicinarsi a passi strascinati. Non sollevava completamente le zampe, ma non produceva nessun scalpiccio. Il suo corpo faceva pensare a quello di una iena e di un passero insieme. Il pelo del dorso era scomparso. Rimaneva una lanugine fine che il primo passaggio d'aria avrebbe potuto sollevare e far volare via. La curvatura della colonna vertebrale e le costole in evidenza, il ventre molle, la coda bassa, tutto in lui contribuiva a creare un aspetto malato. Soprattutto gli occhi infelici, opachi dalla cataratta, che formavano i lati lacrime nerognole collose. Questo è un romanzo in cui, insomma, i rapporti umani, le affinità contano tantissimo, anche l'empatia, perché comunque la protagonista Caterina appunto ha questo rapporto intenso poi con Delio. Delio ce l'ha con il cane. Delio però è nello stesso tempo un anziano che non parla da tanti anni con il figlio, poi magari si capirà anche il perché. Il fatto che questo romanzo sia ambientato nel sud della Francia non è un caso, lo ricordiamo, anche perché tu sei italiana, italianissima, ma vivi in Francia. Sì, ho vissuto a Parigi per diversi anni, ora sono nel sud della Francia, e in questo romanzo a capitoli alternati ritorna sia l'ambientazione del sud della Francia sia Parigi. Parigi, la banlieue, la periferia. E nella periferia vive Daniele, il figlio di Delio, di cui Caterina si innamorerà, insieme ad un immigrato tunisino, Amir. E quindi oltre diciamo il tema della vecchiaia c'è anche quello dell'immigrazione, che è un altro tema che mi sta molto a cuore. Ti sta molto a cuore anche perché fa parte della tua professione principale, oltre a quella di scrittrice. Sì, lavoro per un'agenzia ONU che si occupa di immigrazioni internazionali e asilo politico, e quindi sì, il tema della migrazione in qualche modo non solo lo vivo personalmente nel mio trasferimento all'estero, ma professionalmente. Secondo te la letteratura, l'inserire un personaggio migrante, può avvicinare i lettori a una concezione migliore circa l'accoglienza? Io credo di sì, perché leggere un libro è un po' come incontrare una persona, e i personaggi di un libro diventano interlocutori privilegiati del lettore. Il lettore stringe con loro un patto di fedeltà, li segue fino alla fine del libro, li conosce come potrebbe conoscere effettivamente un amico o un familiare, e quindi conoscere da vicino uno straniero aiuta forse ad andare al di là di paure e diffidenze che possono chiudere piuttosto che non aprire al dialogo. Senza fare spoiler del romanzo, diciamo che Delio sembra all'inizio, insomma, una persona empatica, sembra instaurare un bel rapporto con Caterina, eppure, come dicevamo, sono 4 anni che non parla con il figlio. Senza andare nel dettaglio del perché e il per come, insomma, anche questo tema della incomunicabilità o a volte dei non detti, dei fraintendimenti c'è nel tuo romanzo? Sì, le famiglie si costruiscono anche intorno a non detti, a conflitti irrisolti, ed è il caso sia di Caterina sia di Daniele, con le rispettive famiglie d'origine, da cui si allontanano entrambi anche fisicamente, perché Caterina da Roma si trasferisce nella campagna francese e Daniele, che ha una storia di migrazione alle spalle dall'Italia al sud della Francia, si trasferisce nuovamente dal sud della Francia alla Baglio parigina. Quindi anche quella di Caterina è stata un po' una fuga da Roma, o da una famiglia, da una madre? Sì, decisamente. E il bisogno anche di creare distanza per poter rileggere sia il proprio vissuto sia quello familiare, e ritornare poi a cercare negoziazione, vicinanza o comprensione, più semplicemente, da quello che accadrà anche ad Elio con Daniele. Daniele vorrà riconoscere che Delia è stato come un adulto che gli ha dato una spintarella dispettosa sul bordo della piscina, e lui si è ritrovato in acqua e un po' per rabbia, un po' per bisogno si è messo a nuotare. Grazie a Novità Amedei, ora in libreria con Finché notte non sia più, pubblicato da Neri Pozza. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che tutte le puntate sono in podcast, le trovate su radio24.it nella sezione Il cacciatore di libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.